Billy. Attento Billy. Chi è quello? Ah, io pensavo che avevi staccato il PL per il vento. No, non ho tolto l'antenna. Hai fatto benissimo. Adesso ho messo quel tubo a cannocchiale elettrico. Mi ha detto quello, alto 150 metri. E poi l'antenna sopra. Hai visto quel video, eh? Ma no, te ne immagini una cosa del genere con quell'antenna lì. Ma tu immaginati se ci sarà qualcuno, perché sicuramente c'è qualche pazzo così che ci mette una cosa del genere. Ma quelli sono per sistemi comunque pesanti, capito? Ma te immagina che rimasto sopra quello lì. Ma allora, l'antennino, la fusanella ci metto sopra. Non c'è bisogno di metterla che è matta, la fusanella matta. Ma va bene la fusanella, metto la fusanella, non la che è matta. Mi lo stai uscendo, mi stai uscendo tutto quanto pulicenno, con rumoraccio. Lampa di tutto, non ce la mette la cassone della Mondessa da quelle parti, buttalo lì dentro. Ma già mi dici da farlo sul microfono. Farlo di legno, un microfono, di legno, fatelo. Di legno d'olivo, non è il connettore che è messo male, non hai visto che sta. Si è spezzato il coso, la guaina esterna, e se che ci deve essere qualche filo, ogni tanto gli sale il male. Fare un legno d'olivo, così almeno quando non lo usi più hai la legna per la stufa. Ah sì, a me l'unico legno che mi piace è quello, l'olivo e l'altro, è il ginepro. Il ginepro? No, il ginepro si muore subito, cosa? Fa molta fiamma quello, sì, fa muore subito, è troppo olioso. Ma è un bel legno, è un bel legno. Ma è tenero, è tenero, è molto resinoso e dunque fa molta fiamma indubbiamente. Fatto la strada della vara, la strada di Ruvumu è la varata di Rivuochi. Si brucia, ma se ci devi fare altro, no? Vabbè, dipende da quello che vuoi fare. Poi anche puzzolente come odore di legno. Ci devi fare manici per coltelli o cose così, è bellissimo. È un asimi. I manici di coltello vanno bene. E non il vaso, va bene, e materiali pregiati, può andare bene anche il melanti, può andare bene, e poi, oppure puoi mettere anche di rocco, che è duro, a voglia, il flassino, quelli sono i digni per i manici, che non si rompono mai, si rompe prima la lama che i manici. Ah, è per estetica, Giulio, bella. Quale? Parlo di estetica. Ah, di estetica, estetica è bellissimo. È bellissimo, ad esempio è bellissimo anche il flassino. È un bel legno. Che bello bianco, candido, molto duro, ma duro veramente. Ma anche il melanti, quello esteticamente il melanti è bello perché è il colore del mogolo. Dunque, se poi ne vuoi un altro ancora bello esteticamente, metti il paduc, un legno rosso, che poi col tempo sì o sia diventa leggermente più scuro, leggermente un po' più scuro, però quando lo tagli è proprio rosso. No, mi piacciono venature e nudi. Quelle sono bellissime. Venature nude, allora il video, vabbè, che cosa ne fai? Tutto un piano di nodi e di gosso. Pino di Svezia, di quarta categoria, ed è tutto pieno di nudi. Però sono nudi che saltano. Oppure, vabbè, saltano anche quelli, saltano lo stesso. Devi scegliere i nudi legati, che non saltano, discendere. E poi sono curriati. Vabbè, avanti a tu. Chi è che fischia avanti, vabbè. Ciao a tu, buonasera e avanti. Impegnato da altre parti, capito? Per regolazioni sempre, trick e track. D'accordo, adesso ho finito questo, ma devo iniziare un altro. Quindi è stato un piacere sentirti, Giulio, anche da tutti gli altri che ci sono sul canale 10. Buona giornata, buona serata e alle prossime. Ciao Giulio, un abbraccio. Ciao Gianfra, ricambiato l'abbraccio da parte mia. Non c'è problema, siamo qua quando ci siamo, perché anche qua siamo troppo assente dalla frequenza. A giorni alterni magari ci troviamo in 3-4, ma quasi, quasi sempre è chiuso tutto. Chiuso per lutto questa 27. Ciao Gianfra, un abbraccio da parte mia, fatti sentire comunque. Avanti Luca. Sì, adesso ho migliorato tantissimo. Avanti a tu. Adesso ti sento bene tu, adesso già sei tu. Adesso sei tu, quello che conosco io. Adesso sì. Cosa stai usando? Ma ricorda la scopa come antenna. Ah, la boomerang, vabbè. Boomerang quella corta o la cosa è quella a 2,70 m, quella cosa è, o quella corta da 1,30 m, 1,40 m. Ah, è ok, va bene. Va bene, già si sento bene discretamente con l'antennino lì. Vabbè, avanti Luca. E allora l'hai tirata giù, l'hai messa in orizzontale l'antenna o giù? Luca, qual è il palo telescopico che mi hai fatto, che mi ha mandato il video? È quasi quasi me lo compro, mi. Quanto sarà alto? 500 metri? Se ce n'è uno più alto, mandamelo, la foto, mandami, così almeno faccio la scelta. Ci metti la Game Master e la Grand Prix. E allora, te lo credo. Caspita, ma dico io, ma quando mai c'è qualcuno che è capace o fa la pazzia di comprarsi una cosa del genere per mettere l'antenna? O Luca, tu pensi che ci sia qualcuno, cosa faccia? Beh, ma quello credo che siano per sistemi portatili, o Giulio, capito? L'attacchi al carrello, l'attacchi alla macchina e vai dove vuoi per fare attivazioni così portatili. Attivazioni portatili, alleluia! Ma si è presa più della macchina quella, col palo così presa più della macchina, anche se è in alluminio. Certo, quelli che vogliono fare con le cose, ti sono saltando, guarda. Ma già sei comprensibile. È comprensibile, sì. Sì, sì, sì. Dopo la tavola. Regolati l'ingresso, sempre. È tutto un rumore questa propagazione. Almeno parlassero quelli dall'Italia, così almeno ricapiamo. Invece no, sono tutti stranieri e tutti pieni di rumori, oh Luca. Così non mi piace la propagazione. Aspetta, non sto guardando quanto è lungo o giù quel palo. Misura, guarda se ne trovi uno più lungo anche. Ebbene tu, lavorando? Qua finita? Quella che mi avevi detto la volta che ci siamo visti, sì, ho capito. E vabbè, adesso ne troverai un altro impiego, non c'è problema tu. Vai, altro, non c'è problema. Natalino 8, ci sei? Tattalino, ci sei? Intanto lo so che stai ascoltandomi, Tattalino, escine fuori. 12 metri è lungo, cosa pensi che sia lungo, Giulio? 12 metri, che aspetta? Insomma, sembra più lungo, guardando nel video, sembra più lungo, comunque, anche 12 metri sono abbastanza, no? Magari lo metti sul grattacielo. Con quel grattacielo di 880 metri, non mi ricordo dov'è. Va bene, è messo lì. Così vedi tutto il mondo. Io non so come fanno a vivere in quei grattacieli lì. Cioè già io dico, già in un condominio di 4 zincubiani si affarrano i grattacieli. Ma per carità, ci vuole solo con l'ascensore ci vuole mezz'ora arrivare all'ultimo piano, di più di mezz'ora penso. 824 metri mi sembra che è il più alto del mondo, boh. Il grattacielo più alto del mondo. Se da un mille bisogna essere proprio mancanti a costruire una cosa del genere. Sì, ma quelli perché secondo me fanno la gara di ingegneria, soprattutto sfidare l'ingegneria, capito? I venti e tutte, mamma mia, aspetta, ma hai visto come oscillano? Come devono oscillare anche? Gesù Maria. E è cosa di dimenticare lo cellulare a casa e se arrivi tu io. appunto, fatto il conto, 828 metri ogni fallo. 20 gradini a ogni, cioè se sale le scale, 20 gradini a ogni piano, fatelo conto. Ogni piano all'incirca sono 3 metri, 3 per 9, 27, 90 volte, 90 volte, 90 volte 200, 1800 gradini, di più di 1800, guardate un esempio, molto di più. Di, 8.000 gradini. Cazzo, non te lo va a se si faccia l'ascensore. Infatti, è già pesante a far dire quando vai a cosa, come si dice, alle grotte di Nettuno, se fai le scale, sono roba di 7-800, una cosa del genere. C'è gente che non ce la fa a fare tutte quelle scale. Infatti preferisce andare con la, col traghetto, cioè arrivare con la barca lì. Fanno bene, perché a fare tutto quello che io già li ho fatti, in realtà, anche li ho fatti anche di corsa, proprio così, prendo la soddisfazione di fare di corsa, ma ero giovane, eppure ero allenato, ero guardato a piedi nel periodo, ed ero con la famiglia, ho detto, beh, io salgo, io vado, ci vediamo su. Sono salito da giù, dal primo gradino sino all'ultimo, senza mai fermarmi, di corsa, proprio di corsa, ma ripeto, io lo facevo perché ero allenato, se torno lo posso va avanno, ma quando è piano, me lo posso così. Ma non ti fida. Ma che dai. Poi tornando all'altezza del palazzo, io ho fatto dei lavori anche alla a grattacielo di Sassari, no? Di piazza da Castello al dodicesimo piano. Beh, tu non ci crederai, quando ti avvicini alla finestra ti dà il senso del pericolo proprio, eppure non c'è il pericolo se ti avvicini alla finestra, perché io ho fatto un lavoro lì, avevo fatto uno studio completo in una stanza abbastanza grande con tutti i mobili, tutti attorno, le bestemmie e balle varie. E quando mi avvicinavo vicino alla finestra vedevi questa cosa, intanto vedevi tutto Sassari, no? Vedevi. E poi allo stesso tempo ti dava quell'impressione, caspita, è arrivato di uno di Gagliano che ha sedai, vai. E a pensare, se le vede in America, chi lo vede in americano, i grattacieli si vuole arredire. Vabbè, questo sì, si vuole arredire sì, volevo che sia. Non grattacieli organizzati a confronto di americani sono sotto piano. Non piano terreno, non è sotto piano, sono. Ma per loro è un palazzo, secondo me per loro è un palazzo quello. Ma un palazzetto per loro, non un palazzo, un palazzetto. Gli alluvio, è normale, no? Gli americani non so quanto sono alti, ma comunque sono sempre più di 350 metri, penso che siano alti. Quindi, tipo ad esempio quello che dove si era abbattuto l'aeroplano, con l'attentato famoso, una tirata, capita, ha bisogno di 300-400 metri, boh, una cosa del genere. Sono impressionanti. Però non c'hanno terrazzi qui, è brutto quello, non puoi mettere le piantine. infatti, no, siccome questi palazzi così sono fatti tutto a vetri, io vorrei sapere come fanno a pulire i vetri, com'è che li lavano i vetri? Aspettano, fanno la danza della pioggia per piovere in modo che li lavano i vetri. noi ci sono molti grattacieli, hanno il coso da su, da sopra al tetto. Sì, hanno quella piattaforma tramite i motori, poi li porta giù e lavano i vetri così. Mi hanno fatto vedere in televisione, oscillando quei ponteggi lì, dice dopo una certa oscillazione devono infatti abbandonare quando c'è troppo vento, perché però sono su un carrello, capito? Con le funi poi vengono, si calano giù piano per piano e lavano i vetri. Guarda che ci vuole coraggio via a montare su quei piani lì, con quelle pedane a pulire il vetro eccetera, avevo coraggio a vero, perché quando sto qua di giù poi, per carità, vabbè, comunque, ognuno fa il lavoro che può fare. No, coraggio c'hanno i carpentieri che fanno quelle strutture con queste botrelle. Coraggio va neghiscia, guardate perché in televisione camminandoci sopra per andare a bullonarle. Oh via! Yeah. Ehi! Sono arrivato, Rientrato sì, io o tu. Allora, stavo dicendo, una volta, tempo fa, quando avevano fatto la facciata lì al grattacielo di Sassari, ho visto com'era quel ponteggio che partiva laggiù e c'era questo carrello elettrico che saliva lungo la facciata ed era praticamente proprio nella facciata, era installato nella facciata dove c'è il negozio di Rosa. Anche quello, sì, tutto quello che vuoi, però è sempre, insomma, bisogna avere veramente polso per poter salire su un carrello del genere, perché sarà sicuro, sarà quello che vuoi, ma a salire a quell'altezza, ui. Comunque, la torre gemelle 417 metri, uia. Cosa devi fare una moneta io su? 417 metri, quello di americano? Torre gemelle, 417,5. Allucinante. Siamo a fare. Capita al primo piano. È incredibile, non è possibile. Non è possibile. Vabbè, eppure ricostruiscono, se ne fanno. Però quello non l'hanno più ricostruito. Sono passati a quasi 20 anni, mi sembra, dal 2001 mi sembra che eravamo, quando si era abbattuto l'aereo. Il 2001 mi sembra. Se che sono passati a 20 anni, 22 anni all'incirca. Però me non mi ricordo così, adesso non lo so. Però mi sembra che sia una cosa così. Sì, le hanno ricostruite, le hanno fatte. Pensa che le hanno costruite, iniziate nel 66 e finite nel 72. Nel 76 le hanno fatte. Boh, non ho mai sentito che le avevano ricostruite. Vabbè, aveva un piede, quelle case così hanno un piede larghissimo, perché chissà quanti metri quadrati è il piede, solo il piede del palazzo. Sicuramente un bel manno. No, 66 e le hanno finite nel 72. Le hanno inaugurate ad aprile del 73. Nel 66 le hanno finite, ma quelle quando l'hanno costruite? No, io sto parlando da quando è stato fatto l'attentato, che l'avevano buttato giù, l'avevano, perché ormai non era più sicuro. Mi sembra che siano una ventina d'anni più o meno così. Io mi ricordo che stavo lavorando, io alla Crucca stavo lavorando la sera, quando è arrivata la notizia l'avevo vista in televisione come si era abbattuto l'aereo, che c'era entrato da una parte e era uscito dall'altra, a un piano intermedio. Là. Poi le hanno rifatte però, nel 2006, è finita nel 2013. Ah, ecco, nel 2006 l'hanno iniziata e poi l'hanno fatta nel 2013. Ebbè, quella appunto nel 66, l'attentato era nel 2001, faceva il 66, quando ho capito, 2006, non 66, nel 2006, sì, beh. Vabbè, gli americani in America, dunque, ne hanno tanti per fare le guerre con le armi, finché possono fare le case. No, non mi ha capito. Le hanno iniziate a costruire nel 66, le hanno finite nel 72, le hanno inaugurate nel 73 e poi è successo nel 2001, l'11 settembre del 2001. Nel 2006 le hanno iniziate di nuovo e le hanno finite nel 2013. Ah, ho capito, ho capito. E anche la Torre Eiffel, che sta canteata a Burulissa, anche quella è molto alta, una struttura tutta in acciaio, anche quella. Anche quella, sembra, vedendo la televisione, sembra piccola. Bella bella dal vivo, soprattutto la notte quando è tutta illuminata. 300 metri. 300 metri, anche quella già è, c'erano le piccoline. Allora tu, prepara l'antenna che la mettiamo sulla Torre Eiffel. E beh, tu, la giovanotta, gli accamminenti, a rasura. Ehi, giovanotto, fatti via i primi passi. Sì, si sta già andando in piedi. Allora, come sta via? Fatti arrabbiare. Ma come sta già, sì. Vabbè, mi ha da Edu, che così mi rinido. Mi fa 150 anni da avanti di vita ancora. Avanti tu. E secondo me correrà dietro le ragazzine più del padre. Lo spero. Vabbè, andiamo così, dai. Andiamo. Stavo dicendo, quel lavoro che facevi prima non lo, ma mi detto che non lo volevi più fare, vero tu? Ah, ecco, il motivo era quello, no? Pensavo che avevi qualche problema di schiena, ad esempio, no? Ah, ecco, era solo un cliccione di Botafuglio. Beh, certo, se non ti pagano bene, vai, vai, hanno fanni. Lo dico. Lo sai che il trovaggio può pagare, gli operai bisogna pagare, no? No, non ve lo puoi via che sono principali. Ecco, fa una cosa, o me dai di cui io, oppure di serbuti, di serbuti, allora qui tomiamo. Anzo, ma niente la novità è a Sassari. Ma chi ti già mi paga? Se non la società a pagare, tra quanto prendendo il dino della casa. E poi fare la disoccupazione, non la puoi fare? No, io non sono tanti di lavoro, se no. Qui c'è un gasino, una buccia. Casotto, oh, un casotto. Oh Giulio, dimmi. Ma il Regio 58 da mettere nella Torre Gemella, ne hai? Cazzo, quanto lunga una bobina di quelli che quando lo costruiscono, ho visto l'altro giorno un video come fanno le bobine di legno pronte per poi fare le matasse, no, nelle quelle bobine. Signor Ruda, che ragazza che c'è un uomo. Bella, tutto, però quanti metri ce ne saranno in una bobina? Uno non lo so, quando mai non ci sono mille metri almeno. Credo proprio di sì. A te immaginaci, abiti al primo piano, e come sta a mettere l'antenna lì? Balla. Attenzione canale 10! No, non c'è nessuno su canale 10, sono tutti usciti. Ciao già. Ciao ciao a tutti, buonasera, settembre 51 a tutta la ruota, non so chi ci sia, ben sentiti tutti, avanti. Ma ci si dà le due mezza cucchiaia, finita. Luca e Antonio, dopo un bel po' di tempo si è fatto risentire, finalmente che te lo faccio risentire, vai tu. Buonasera. Ma che pare due Gianni me? Gianni, già caduto dalla sedia, sì. E allora? Anche in massa di Serrotta, ciao Marco, buonasera. Buonasera, beh il vento non ve la buttate l'antenna ancora, no? A che ti chiedi, faremo la Game Master noi. Game Master, ma non si faccia così così, no? Oi. Ciao Marco. La caricata Giulio, a me intendi tu a me, a tutti dimmi. Io ti intendo, ma sai, anzi lo stai chiamando ripetutamente, ma tu no, tu a risalire ci non mi hai accusato. No, sono di rientro che mi stavano facendo un angio attack. perché e ho finito poco fa, mi ho acceso adesso perché sono appena rientrato, ci mancavo tutta la sera giù. Ah, ho capito. E vabbè, bisogna fare anche quelle cose lì. È ovvio. C'è Gianni, Antonio Bombolo e Duca. Vai per chi vuoi, Natalia. Ciao a tutti, buonasera. Scusate se sono entrato in contropiede, perché tutti criticano la mia antenna e a me mi dà fastidio, perché io sento e parlo con tutti. Natalia, mi sta comprando un palo telescopico lungo 11 metri, 12 metri. Ah, ma vedo mi. Dopo ti mando il video, ti mando, te lo guardi, se ti interessa ti compare di burudu, di lì sì. Puoi mettere l'antennino, non c'è bisogno di mettere la game master. Io mi metto la frusta nera sopra quel palo lì, di quelli elettrici lì, un quadro elettrico, vieni, 60 baumetri 80 la stessa, solo un quadro elettrico. Bene, ti va così, Natali. Sì, a Roma anche un piazzo, un poco di direttivi, un poco d'antenne, e ci vanno rimasti la stagione a quattro manecci. Già basta che su chi va, già tutti i dini. E anche troppo ce n'è. E adesso oggi c'è vento, gatta. Però l'antenna è sempre sul tetto, ho visto. Già lo credo. E rimane lì, nessuno la tocca, nessuno la tocca. Vai Gianni. Anche Gianni c'era. Sì, c'è anche Gianni c'era. Ma è sparito. Gianni, ci sì. Ha fatto sopra la cabiciuta, c'è l'antenna. Ha detto Gianni il caldo, rispondi. Con le bugie, ancora più scomodo. Che il tuo padrone ti chiama. Gianni è salito sul tetto a mantenere l'antenna per il vento. E allora Marco. Sì, buonasera a tutti, Marco salutato. Sono tornato da poco, stavo facendo cose solite, farmacia, discount e varie. Mi sono denudato che ho sempre caldo, io sono in boxer. Ancora c'è caldo fuori, a Nord Italia c'è più freddo, però qua sembra di essere in Nord Africa. Vabbè, poi per me è una questione patologica, quindi capirete. Ciao Antonio, dopo tanto, riprendi. Buonasera Marco, salutone del sentito, per funzione ora tutto qua. Sì, qua sì, 9.15 più o meno, questo smitter non lo so nemmeno più leggere, è sempre fermo sto baracchino, lo sto sfruttando dopo qualche mese di blackout, capito, sono tutti fermi, io sto usando sempre solo il President Taylor, quello piccoletto omologato, e soldi buttati davvero, troppo veramente. Ha ragione Giulio, ne basta uno, due al massimo, là, giusto per non annoiarsi con la stessa radio, però poi. Ah, se non ricordi quando abitavo nella Raccarà, magari no. Eh sì, lì eri più vicino, anche otticamente eri più libero. Vedo che c'è ancora propagazione e ogni tanto sento, anche poco fa mentre mi spogliavo sentivo quello a che fa i gargarismi online e credo che sia di propagazione, quello fa oi, oi. E quello gli fa male qualcosa, non respira bene. Sono curioso di sapere se è tedesco, se è francese o di dov'è. Comunque a me sembra di propagazione, perché il segnale è proprio un fading, sale e scende. Luca, riprendi, perdonerai che non sto guardando i video tuoi, però non c'ho audio, c'è ancora il telefono rotto, non l'ho cambiato ancora. Ah, peccato, c'è tutto di nudo. No, non sono video importanti, Marco. Poi ho visto la verniciatura, bella la finitura, ed è vernice ad acqua, hai detto, ma poi rimane stabile una volta asciutta, non è che cade una goccia d'acqua e lascia la striscia, no? Ma scherzi, sono a base di resine queste vernici all'acqua. Le uso anche per fare la cubicatura come fondo, quella lì proprio che hai visto. E poi è bella anche così. E non gli ho dato neanche trasparente, capito? Perché erano troppo messi male. Cappa, cappa. con l'aerografo sì che non fa neanche odore come tinta, capisci? Poi la puoi diluire con l'acqua semplicemente e ti dura molto. Sì, ma con le vernici all'acqua oggi si può fare l'applicazione su qualsiasi cosa, non c'è problema, vanno bene. Comunque un po' di odore lo fanno lo stesso, eh? Io lo so perché già ne ho usato abbastanza, perché magari quando stai lavorando non senti molto odore, però nell'ambiente chiuso, che no, ad esempio in falegnameria, quando io usavo la vernice all'acqua, no? Poi chiudevo la sera, l'indomani quando entravo c'era l'odore, altro che se c'era. Però non è certamente nocivo come le vernici poliuretaniche o quelle assorbenti, insomma, non di certo, quello è tutto un altro discorso. E poi hanno un vantaggio che asciugano subito e quando devi allungare, allunghi con l'acqua stesso, non devi mettere solvente, non devi mettere niente. E poi hanno una buona finitura, basta avere un buon fondo, hanno un'ottima finitura, bella, liscia, tranquilla e pacifica. Ok, riprendi Marco e fai girare. Anche le macchine sono fatte così. Molte macchine sono bruciate all'acqua. Sì, anche le macchine oggi dappertutto si stanno usando le vernici all'acqua. Però io ritengo che quelle assorbenti sono più durature, durano di più secondo me, poi ognuno ha le sue idee, va bene ancora le vernici all'acqua per noi perlomeno qui in Italia, non è che siano così collaudatissime, però vanno bene, devo dire che vanno molto molto bene, soprattutto su supporto già finito sopra, quando tu metti quello lo puoi fare a flusso, lo puoi fare a pennello, e se quando fa a pennello sembra che sia fatto a flusso perché si espande molto la vernice, vanno molto bene, no, vanno delle belle finiture. Vai Marco. Eia, poi la durata del tempo non saprei se al pari delle altre vernici, sai, al sole, soprattutto le macchine, perché ci sarà anche un motivo, chi le fa acqua, chi le fa con vernici con altri solventi. Vabbè, per un baracchino ce n'è d'avanzo, ho capito, non è che sia al sole, alle intemperie. Cappa. Giulio, tu sei nelle condizioni solite, è vero? Perché con l'altro baracchino sei 8. Circa 8, dai. Qua sei 9, modulato 9 più 5, quindi come vedi la trasmitter è veramente, ma veramente secco. Questo è più naturale, un po' più naturale, dai. Sì, sempre con 2 watt, che poi misurate col watt, addirittura non ci sono nemmeno 2 watt. Poi risulta 1,5 watt, misurate col watt, metro, 1 watt lo serio, tra l'altro. Per cui, però, dico 2 watt, e 2 watt lo consideriamo, poi 0,5 watt in più, 0,5 watt in meno, non è che ci sia questa grande differenza. Avete considerato che mi sentono lo stesso, va bene così. Avanti Luca. Bianco per me, ce la risentiamo dopo se coincide. Va bene Antu, siamo qua. Avanti Luca. Ciao Antu, ti ho mandato quel video di quel paletto telescopico che si deve mettere Giulio. Mandalo a Natalino, mandalo, che lui non ci crede, che io me l'ho già ordinato. Infatti adesso me lo portano col drone, perché adesso WhatsApp deve fare quell'esperimento, lo sapete, no? L'ho sentito proprio oggi alla radio la notizia che adesso i prodotti di Amazon li vuole consegnare col drone, però devono essere pacchi non più grandi di una scatola di scarpe e dal peso massimo di 2,5 kg, non di più. Vediamo un po' cos'è quest'altro sistema, anche quello è un sistema sempre più all'avanguardia, questo Amazon. Però se abbiamo pagato un po' con i dazi per l'Italia forse saremmo stati anche più contenti, visto e considerato che hanno uno sconto madornale, questa gente paga un po' rispetto agli italiani, molto poco di tasse, molto poco le pagano. Vabbè, proprio una piccolissima percentuale. Avanti Natalino sta pettinando il cane, sta pettinando. Avanti Marco. No, ordinando le bambole. Visto là che è sbagliato. Oh Marco, quelle due infermiere mi hanno fatto spogliare, ignudo mi hanno fatto rimanere. Ti hanno messo il camicino? No, nudo, nudo! Nell'attacchi, perché ho fatto l'attacchi, no? Per le arti inferiori. E allora mi hanno fatto i pantaloni e tutto. Tutto nudo. Come mamma mi ha fatto. Ma buone erano almeno, perché poi c'era il rischio che bloccava il macchinario, Micia. Capito? Per l'ingombro verticale. Quell'ingombro è che. Infatti me l'hanno ripetuta perché si bloccava. Ti dovevano dare il bromuro, così almeno non succedeva niente sotto. Ma te ne immagini, quindi hai fatto Natalia l'angio, come si chiama, angiogramma? No, angio tacchi, serve per vedere la circolazione nelle arterie, capito? Vogliamo sapere, grazie Monica, delle gambe, era per gli arti inferiori, per quel difetto che ho la gamba io. Brecco. Avanti. Ciao Giovanni, buona serata, come stai? Ciao, va tutta la roba, tutto bene, dai, via, adesso l'ho acceso, vedo, diciamo, se c'è qualcuno, dai. Tutto bene, a parte mia, però aspettando anche di voi. Ok Giovanni, sì, perlomeno siamo tutti in forma, tutti pimpanti, infatti stiamo diminuendo, stiamo ritornando all'età giovanile. Tornando indietro, al conto la rovescia già abbiamo pensato di fare, dunque ci conviene fare così. Ok, vai Giovanni, c'è Marco, c'è Luca, Natalino, Antonio che è assente in questo momento, vai per chi vuoi Giovanni. Sì, dai, ho salutato tutti quanti, Marco, Natalino lo sento, stamattina ho provato a accendere, ma non lo sentivo proprio, adesso l'ho sentito bene. Ciao Giovanni, io ti sento bene, come ti ascoltando, sto uscendo con due vacche. Non ha problemi, ormai anche lui è diventato prepotente, è così, Luca, avanti. Ciao Giovanni, facciamo entrare a Marco, sento un avvento là sotto. Ti sono anch'io. E io, ciao già, ti abbiamo chiamato più volte. Sì, è la ventola della scarpetta, dai, per far lavorare tutto, e sennò qua si inchiola tutto. Ciao Giovanni, che è entrato, io rilancio Gianni direttamente, dai. Ho avuto un problema, c'ho questo problema della labirintite, avrei potuto girarmi attorno, oh, per carità, guarda. Mi sono fermato un attimo, non ce la facevo manco a muovere, perché come muovevo vedevo la stanza girare, quindi immaginati com'era, non mi reggevo in piedi. Ma cos'era, il relativo alla glicemia o altro? La labirintite, praticamente noi abbiamo un gel dietro l'orecchio che tiene l'equilibrio, secondo come tu ti posizioni dormendo e muovi questo gel e ti fa perdere l'equilibrio, se ti alzi di colpo magari è ancora peggio. Già, vabbè, io capogiri ce l'ho per la cervicale, a consisemo, il collo poi è tipo condor, proprio condor di nome infatti, cioè il collo come il condor, così, piegato, vediamo, pensarci, dai, rilancio a Flipper, Luca, riprendi che vado a bere. Sì, che sapevi già, tu ti sei chiamato Condor proprio perché sapevi che negli anni poi ti sarebbe successo questo. E allora, però le ali non ce le ho, le ali non sono ancora spuntate. Comunque la ventola è fastidiosa. Vabbè, se no abbasso il mic. Ma si sente più distante. Oh, io già ti capisco, Marco, già ti capisco, nel senso che se tu hai detto che è caldo, dunque è giusto che ti hai attaccato la ventola. Va bene, allora ti siete preso bene già, spero bene, dai. E adesso ti è passato il capogiro. C'è anche Giovanni o Gianni, Giovanni Fattamolo, non so se l'hai ascoltato, è entrato a poco, vai. Ciao Giovanni Stato. Endolinfa si chiama comunque Gianni, non liquido. Ciao doppio Ru. Io detto che cazzo vedo che non è mai un nome. Niente. Sempre un reparto medicina semmo, fra tutti. E allora, E Luca per guardarselo su Google come si chiamava, sta facendo il professore. Non lo sai. Sì, sì, una settimana dicendo liquido, gel, guarda di dire, buona leggere la gelatina. Beh, questa definizione l'ha data il dottore, non l'ho data io. Il dottore mi ha detto che abbiamo un gel dietro l'orecchio che tiene il nostro equilibrio. Così mi ha detto, per, in parole povere, poi come si chiama non me ne ha fottuto da me. È interessante che mi passi. L'importante è che ce l'hai, no già. Luca! E io ciao dopo. Ascolta, ma tu come sei messo? Sempre uguale oppure si è cambiato qualcosa? Sempre uguale, sempre uguale. È cambiato. Cioè mio zio così, uguale a te, uguale, per la stessa motivazione. Sì, adesso ho fatto la biopsia anche. Mi devono richiamare a novembre per fare ripetere l'ecografia. La biopsia sembra tutto negativo lì. Hai capito cosa tu hai detto? C'è uno zio uguale a te. Sì. Il vaccino, che ci vuoi fare? Scusate, li sentite questi animali dall'11? Stanno splatterando dall'America. Devono essere i chilobattari del Super Bowl. No, sono sulle Torri Gemelle. Non ci sono più le Torri Gemelle. Sì, le hanno rifatto. Sono su quella nuova torre, quella nuova tutta futuristica. Comunque anche lì ci sono state critiche, perché le Torri Gemelle erano più austere, no? Cioè, andavano meglio per l'aspetto di New York. Invece questa torre futuristica tutta fatta a spicchi, hai visto com'è fatta? Qui c'è cozza un po' con il design della New York, dei grattacieli della New York un po' antica, diciamo. C'ho la torre del Platano. Marco, ieri anche la Polonia dice che arrivavo potente. Potento, me l'hai detto, sì, quando c'è propagazione, poi se gli dai un aiutino va tutto bene. Giulio, riprendi. Ok, sì, ah, con la Polona ieri hai parlato, Natalie, già va bene, dai, già va bene, ma io qualche annetto fa avevo parlato in Florida, dunque, c'ero lì, infatti adesso che c'è l'Israele che è in guerra, se mi mette il pulsante di qualche siluro, io con la portante glielo schiaccio da qua, glielo schiaccio e così faccio anch'io un disastro da qui, dalla Sardegna. Oia, ti cose che mi muga, vabbè dai, comunque va bene così, vai Giova. Sì, dai, ne approfitto a salutarvi, visto che mi avete dato lo spazio, ciao, e vi saluto, dai, alle migliori, buon proseguimento di serata a tutti quanti, ciao ragazzi. Ciao, Stanco, ci sentiamo, dai, stammi bene. Ciao Giova, grazie per essere entrato a fare due chiacchiere con noi, è sempre un piacere ascoltarti, alle prossime, ciao. Vai Natalie. Non stavo seguendo giù. Che sta andando via, perché stavo parlando con la 50 in verticale, capito? Sta andando via Giovanni dal mare, dalla parte del mare, e sta andando via, e dunque ha salutato tutti. Ciao Giovanni, ben sentito. Riprendi Marco. Riprendi Gianni. Deve essere Marco andato alla madre, perché lo chiamo ogni tanto. Esci. Pronto lì, beh, tutto a posto. È inedito, me lo danno fra 5 giorni. Delle decorazioni. Ma ne passa a me, fa oggi un bisadacchi, gli durava 5 minuti, sì. Anche il mezzo di contratto mi hanno messo, non trovo d'altro. Quanto è durato? Mezzo? E un mezzo, là, tre voci mi sono entrati. Perché due senza contratto e l'ultima col contratto. Ho capito, vabbè, se un riavvatto almeno qua non ci pensi più, ti fai il lavoro e non ci pensi più, allora sei tranquillo. Natalino, Oia. Una domanda così per, non so se te l'hanno detto, il contrasto è di tipo radioattivo o di tipo non radioattivo? Radioattivo è. porca miseria, mi serve un campione radioattivo che devo testare uno strumento. Fai una cosa, conserva la pipì in una bottiglietta che la ritiro domani. Ma di pico vado di coglioni, eh? A Luca gli mandiamo una bomba atomica, adesso faccio la pipì e sono affari sui, stanotte alle due lo bombardo. Sì, già c'ho la mazza io, ti preoccupare, una bella mazza e te la spacco la bomba atomica. Ciao Luca. Buonasera, buonasera. Dai, sono entrato a salutare perché sto per uscire. Ma te l'immagini questo Luca Fuggioni, sempre cosa mi dice? Che arrivo. Stanotte alle due ti telefono, così mi pari e non dormi. Ti faccio schiattare. Vuoi ti faccio mangiare l'urino di mamma, vuoi vedere? Come diceva, ti piombo di telefonate. A te, a quella grande mamma tua. Ma lo sai che dopo anni ho scoperto che sul telefono avevo salvato tutto il contenuto audio di quel sito famoso, quelle registrazioni, e non me ne ricordavo più, erano una cartella, non dico nascosta, ma al di fuori delle cartelle normali. Ah, io c'ho il CD. Come lui? Ho detto che ho il CD. Io ho l'MP3. Idem. Sarà lo stesso, non ho fatto un po' di gente io a registrare. Sarà lo stesso che c'avevo io, da un ricordo ce l'ho attaccato. Oggi la chiavetta è più moderna, la chiavetta ci vuole per queste cose. La chiavetta ancora non esisteva quando l'ho fatto io, Giulio. Infatti, ciao Giulio, no, la chiavetta non esisteva proprio. Sì, va bene, se non so quel cavolo, un mezzo, ma ce l'ho comunque, ce l'ho, non so, a parte da qualche parte. Se lo vuoi Marco, se lo prendi, te lo zoppi. Se hai tutti i file nella cartella, va bene, dai. Va bene, bene, sto andando, c'è un vento, mi sta piegando l'antenna, mamma mia, va. Insomma non si spezza l'antenna. No, si spezza, quelli in alluminio si spezza difficile. Ciao Luca, no, si spezza, preoccupato sì, poi tanto ne vendono mio, non è che è l'ultima quella che hai comprato, se dovrei comprare un'altra se continui a modulare, non ti preoccupare. Quella l'ho restaurata, ci ho adattato. Fa un'ennesima restaurazione, perché? No, che problemi ci sono. Io comunque ce l'ho sempre conservata, eh. E no, quella non si spezza mai, è bella appoggiata in un angolo, sempre, non si spezza mai, nemmeno il vento prende mai, ho già. E magari si arrugginisce a più restare ferma, dalla, che se non la usi. No, è l'alluminio, non si arrugginisce, no. È l'alluminio già, dunque è un materiale che non mette ruggine. Cosa vuoi che ti dica? Vabbè, comunque, va bene così. Poi ormai non mi è rimasto più niente. Solo un microfono, io mi è rimasto e basta, del resto non ho più niente. Uscilo, mette uscilo. Non ruggine, sbagliato dicendo. Mette l'uscito. Vabbè, se mette l'uscito non è un problema. Basta un pochino di lana d'acciaio e ci pulisce, diventa lucida, bella, fiammante come il giorno che l'hanno costruita. Anche io l'ho fatta così, quando l'ho scesa l'altra che c'avevo, la mantova, ne ho meglio spruzzato il CRC sulla lana d'acciaio e quindi l'ho passato. E ne è uscita tutta questa roba vera, poi passa per lo straccio, è diventata lucida. Sì, perché l'alluminio è così, in effetti è così, non c'è problema. Nonostante che è stata usata per una decina d'anni, forse anche 12, però è sempre nuova, è bella, fiammante. Sì, tu mi dirai, non me ne faccio niente, hai ragione, non me ne faccio niente, no, così, però mi piace tenerla, visto considerato che è un'ottima antenna, mi piace tenerla, non la monterò mai più, però è più facile con la Game Master, è più facile, leggera, tranquillo, ce l'ha nel terrazzino, anziché averla nella parte alta della casa, ce l'ho nel terrazzino, quando devo fare qualche lavoro metto la sedia, sollevo il braccio e svito il piede, perché è bassa, e va bene così, e mi accontento, e mi faccio sentire ugualmente, avanti Luca. Adesso c'è sempre la Game Master. Sì, sempre la Game Master, allora, non la tocco più quella, ormai la tocco più, se si dovesse rompere o la metto a posto o l'aggiusto, che poi è facilissimo da aggiustare, non è un problema, oppure rimetto quella, ricompro quella stessa, l'altra non la piazzo più, è pesante nel senso che è ingombrante anche molto, e poi non ce l'ho a portata di mano, perché la dovrei mettere nella parte di dietro.